un'avventura questa volta. Abbiamo maturato per due strade senza incontrarci mai. Lo sai come io so che non voglio sbagliare un'altra volta per restare solo. No, non può essere così. Chissà, le nostre storie forse sono uguali. Cambia soltanto chi ci ha fatto male. Doveva essere così. Lassù, su quella stella, c'è già scritto il tempo che passeremo insieme cuore a cuore per non soffrire mai di più. Io voglio crederci, io voglio vincere. Io so che è facile se amore c'è in quest'anima. Sai cosa c'è? Una passione che è più di me. Non è difficile se la vorrai. Voglio rispondere ai dubbi tuoi, darti risposte senza un perché. Sì, sarà facile se amore c'è. Bacio dolce che saprò baciare, con le mie labbra cambierò il sapore, l'amaro in bocca se ne andrà, vedrai che voleremo insieme noi due soli, un posto lo troviamo in paradiso. Se amore c'è tu crederai. Io voglio crederci, io voglio vincere. Io so che è facile se amore c'è in quest'anima. Sai cosa c'è? Una passione che è più di me. Se la vorrai, voglio rispondere ai dubbi tuoi, darti risposte senza un perché. Sì, sarà facile. Io voglio crederci, io voglio vincere. Io so che è facile se amore c'è. Quest'anima, sai cosa c'è? Una passione.